primo giorno di incontri e di dibattiti a Venezia, il convegno organizzato dall'Osservatorio sui Balcani dal titolo Vivere senza futuro, i protettorati d'Europa, della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo, che sono due regioni che a distanza di anni non hanno ancora uno status istituzionale definito. Sono in collegamento con noi Nicole Corritore dell'Osservatorio sui Balcani e Rosita Viola, direttrice del Consorzio Italiano di Solidarietà. Nicole, iniziamo con te. Perché la scelta di dedicare il convegno annuale proprio alle regioni della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo? Sono due aree a tutt'oggi che non esercitano sovranità, non sono protettorati e quindi si trovano ancora tuttora in una situazione di limbo istituzionale e che noi abbiamo denominato anche aree grigie d'Europa. E sono formalmente sotto amministrazione internazionale e è una tutela che però ha limitato la sovranità di questi territori per accompagnarli verso un'autonomia piena. Ma oggi ci si chiede, a distanza di più di un decennio dalla fine della guerra in Bosnia-Erzegovina e da 5 anni dall'intervento della comunità internazionale in Kosovo, quale futuro attende queste due aree. Grazie Nicole, buon lavoro. E invece parliamo adesso con Rosita Viola, direttrice del Consorzio Italiano di Solidarietà. Il consorzio, insieme ad altre ONG, si è riunito già il giorno prima del convegno per fare il punto proprio sul ruolo delle ONG in questi territori. Quale futuro per questi paesi e quale futuro per le ONG che lavorano da tanti anni? Sicuramente ancora una volta nell'incontro di ieri che abbiamo tenuto a Portogruaro la sfida è sempre quella di sempre, cioè di ripartire da una centralità delle persone e soprattutto persone come cittadini e quindi portatori di diritti e rispetto a quale tipo di cooperazione in un contesto di protettorato internazionale, qual è il Kosovo, o di uno Stato a sovranità limitata, qual è invece il caso della Bosnia-Erzegovina, la modalità possibile per interventi di cooperazione o in passato di emergenza è sicuramente quella di un lavoro principalmente nelle piccole comunità, appunto con le persone nei loro territori. Quindi questo come metodo generale abbiamo condiviso. Attraverso strumenti, in una situazione conflittuale come quella della Bosnia e del Kosovo, che vede lo scontro tra diverse comunità, che sono soprattutto e principalmente il dialogo che però facendo appunto come ONG interventi di cooperazione deve partire dall'individuazione di bisogni comuni di queste comunità. Oltre alle ONG e alle organizzazioni non governative, ricordiamo appunto che questi paesi sono dei protettorati, quindi c'è la presenza istituzionale internazionale, in particolare quella europea. Come rinnovare il rapporto con le istituzioni europee, con le forze internazionali per essere maggiormente d'aiuto a questi paesi e alle loro popolazioni? Per quanto riguarda gli spazi di collaborazione sono appunto percorsi possibili e comunque necessari, nel senso che appunto parlando nel Kosovo di un protettorato internazionale non possiamo fare a meno che rapportarci quindi all'esistente, al sistema che sia amministrativo, istituzionale, definito dalla risoluzione dell'ONU. Nel caso della Bosnia, come ho detto, leggermente diverso. Quello che possiamo dire come ONG che si muovono in questo tipo di contesti, con appunto differenze, differenti sfumature, sottolineature, è molto spesso la difficoltà di muoversi in un sistema che rischia o a volte tende ad essere arbitrario, nel senso che vedi la situazione della Bosnia-Erzegovina, la presenza dell'alto rappresentante che di fatto ha potere di decidere se rimuovere degli eletti locali piuttosto che altri tipi di azioni, appunto determina molto spesso in mancanza di regole, di procedure, una chiarezza in chi governa anche da parte, anche nei confronti dei cittadini con cui noi lavoriamo tutti i giorni. Noi come ruolo in questo scenario vediamo appunto semplicemente una nostra presenza al fianco e a sostegno della nostra controparte, che è fatta di una società civile variegata, di giovani, di anziani, di donne, di bambini, di intellettuali, di giornalisti, con i quali tutti i giorni cerchiamo di confrontarci e senza sostituirci a loro di capire una soluzione possibile. Grazie a Rosita Viola, direttrice del Consorzio Italiano di Solidarietà, buon lavoro, e grazie anche a Nicole Corridore dell'Osservatorio sui Balcani. Ricordiamo infatti che il convegno, dal titolo Vivere senza futuro, Protettorati d'Europa, si concluderà domani sabato 4 dicembre a Venezia. Grazie.